Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Meiner Peperkorn, un olandese di età matura, fu per qualche tempo ospite del Berghof, che a buon diritto recava nella sua insegna l'attributo internazionale. Il signor Peperkorn arrivò alla stazione di Dorf con lo stesso treno della sera con cui vi giunse la signora Chauchat. Salì insieme con lei al Berghof nella medesima slitta e cenò con lei nel ristorante. Più che contemporaneo, fu un arrivo comune, e questa comunanza continuò, per esempio, con la disposizione che Meiner sedesse accanto alla reduce signora alla tavola dei russi a modo, di fronte al posto dei dottori. Peperkorn aveva il labbro superiore raso, il naso grosso e carnoso, grande anche la bocca, con le labbra irregolari, simile a uno squarcio. Oltre a ciò le sue mani erano piuttosto larghe, ma fornite di unghie lunghe tagliate a punta, ed egli se ne serviva quando parlava. Parlava quasi senza smettere, anche se Castorp non riusciva ad afferrare bene il contenuto dei discorsi, facendo gesti ricercati per attirare l'attenzione, gesti civili da direttore d'orchestra, precisi e puliti, studiati, adatti a esprimere sfumature delicate, curvando l'indice e il pollice fino a formare un cerchio, o stendendo la mano aperta, larga, ma con le unghie appuntite, per smorzare, ovviare, esigere attenzione, e poi deludere l'ottenuta sorridente attenzione con l'oscurità delle sue frasi, così solennemente preparate. O forse non proprio deluderla, ma tramutarla in lieve stupore. Infatti la solennità, la delicatezza, la prosopopea della preparazione sostituivano benissimo, anche successivamente, le parole mancanti e riuscivano a soddisfare, a divertire, ad arricchire per se stesse. Certe volte le frasi non erano neanche pronunciate. Egli posava delicatamente la mano sull'avambraccio del suo vicino di sinistra, un giovane scienziato bulgaro, o su quello di Madame Chauchat a destra. Alzava poi la mano obliquamente, chiedendo silenzio e attenzione per ciò che era in procinto di dire, e alzando le sopracciglia in modo che le rughe correnti ad angolo retto dalla sua fronte agli angoli esterni degli occhi si approfondivano come su una maschera, abbassava lo sguardo sulla tovaglia, accanto alla persona che aveva bloccato, mentre lo squarcio delle labbra aperto pareva sul punto di emettere parole di somma importanza. Dopo un po' invece mandava fuori il fiato, rinunciava, faceva un cenno come per comandare riposo e, senza aver fatto nulla, ritornava al caffè che si era fatto servire straordinariamente carico, preparato con la propria macchinetta. Dopo averlo bevuto, procedeva nel modo seguente. Con la mano arginava la conversazione, stabiliva il silenzio, come il direttore che fa tacere la confusione degli strumenti quando l'orchestra li sta accordando e col suo civile comando la raccoglie all'inizio dell'esecuzione. Poiché, siccome la sua gran testa fiammeggiante di capelli bianchi, con gli occhi scialbi, le profonde rughe della fronte, la lunga barba e le nude labbra doloranti facevano senza dubbio un notevole effetto, tutti si assoggettavano al suo gesto, tutti ammutolivano. Lo guardavano sorridendo in attesa e uno qua, uno là, lo incoraggiava, con cenni e con sorrisi. Ed egli diceva, con voce piuttosto bassa, «Signori, bene». Tutto bene. Chiuso. E non parliamone più. Ma prego di considerare di non trascurare nemmeno un istante che... Ma lasciamo questo punto. Ciò che spetta a me di dire non è tanto questo, quanto piuttosto e soprattutto che abbiamo l'obbligo che ci è imposto, l'imprescindibile, ripeto e metto in rilievo questa parola, l'imprescindibile dovere di... No. No, signori, non così. Non già che io... sarebbe grave errore pensare che io... Chiuso! Chiuso, signori, chiuso e liquidato. So che in tutto ciò siamo d'accordo. Dunque, veniamo all'argomento. Non aveva detto un bel niente, ma la sua testa aveva senza alcun dubbio un aspetto così importante. La mimica e i gesti erano stati talmente decisi, penetranti, espressivi, che tutti, Castorp compreso, credevano di aver udito cose notevolissime o, anche avendo notato l'assenza di una comunicazione oggettiva, e portata a termine, non ne sentivano la mancanza. Ci domandiamo in che stato d'animo si sarebbe trovato un sordo. Così passò un periodo, settimane, da 3 a 4 forse, calcolate da parte nostra perché non possiamo affatto fidarci del giudizio e del senso della misura di Castorp. Lo troviamo nella sala di lettura e scrittura. Là regnava maggior silenzio. Soltanto alcune persone erano presenti. Uno scriveva a una delle doppie scrivanie sotto una lampada sospesa. Una signora con 2 paia di occhiali sul naso, seduta davanti alla libreria, sfogliava un volume illustrato. «E suo cugino? Monsieur?» domandò una voce dietro a lui, sopra la sua testa. Era una voce incantevole per le sue orecchie, fatte ormai per ascoltare con immenso piacere la sua aspro-dolce velatura, se vogliamo spingere il concetto di piacere a una vetta estrema. Era la voce che una volta aveva detto «Volentieri, ma non romperla». Una voce vittoriosa, fatale, che se aveva ben capito, gli aveva chiesto notizie di Joachim. Castorp abbassò lentamente il giornale e sollevò un poco il viso di modo che la sua testa toccò la spalliera verticale un po' più in su, soltanto col cocuzzolo. Socchiuse perfino gli occhi, ma li riaprì subito per fissare obliquamente un punto nel vuoto, nella direzione assegnatagli dalla posizione del capo. Verrebbe fatto di dire che la sua espressione aveva un che di profetico. Da sonnambulo, egli si augurò che lei ripetesse la domanda, ma ciò non avvenne, sicché non fu neanche sicuro che lei fosse ancora dietro di lui, quando, passato qualche tempo, rispose con strano ritardo e a mezza voce. «È morto. Ha fatto il servizio in pianura ed è deceduto». Egli stesso notò che morto fu la prima parola detta con rilievo tra loro questa volta. Notò pure che, non essendo abbastanza pratica della sua lingua, lei scelse parole di condoglianza troppo lievi, allorché dietro e sopra di lui disse: «Ah, che peccato! Proprio morto e sepolto. Da quando?» «Da qualche tempo. Sua madre lo portò con sé laggiù. Gli era cresciuta una barba da guerriero. Sopra la sua tomba furono sparate 3 salve d'onore. Le meritava. Era molto valoroso. Più valoroso di altri. Di certi altri. Sì, era valoroso. Radamanto discorreva sempre del suo zelo eccessivo, ma il suo corpo fu d'altro parere. Rebellio carnis, dicono i gesuiti. è sempre stato per il corpo onorevolmente. Ma il suo corpo aveva lasciato entrare qualcosa di disonorevole e fece lo sgambetto al suo zelo. D'altronde, perdersi e perire è più morale che conservarsi. Vedo che siamo ancora disutili filosofi. Radamanto, chi è? Berens, così lo chiama Settembrini. Ah, Settembrini, so, era quell'italiano. Io non lo amavo. Non era di sentimenti umani. Era superbo. Non è più qui? Come sono sciocca. Non so chi è Radamanto. È roba da umanisti. Settembrini è traslocato. Abbiamo filosofato in lungo e in largo durante questo periodo. Lui, Nafta e io. Chi è Nafta? Il suo avversario. Se è suo avversario, mi piacerebbe conoscerlo. Ma non avevo detto che suo cugino sarebbe morto se tentava di fare il soldato in pianura. Sì, tu lo sapevi. Che le viene in mente? Un lungo silenzio. Egli non ritrattò. Col cocuzzolo premuto contro la spalliera dritta, lo sguardo da visionario, attese che la voce risuonasse un'altra volta, di nuovo incerto se lei fosse ancora dietro a lui, col timore che i brani di musica nella stanza vicina potessero aver assorbito il rumore di passi allontanatisi. Finalmente, invece, ecco, e Messier non è neanche sceso al funerale del cugino? Egli rispose, no. Gli disse addio qui, prima che lo chiudessero, quando cominciò a sorridere. Non puoi immaginare quanto fosse fredda la sua fronte. Di nuovo, che modo è codesto di parlare con una signora che si conosce appena? Devo parlare in maniera umanistica, anziché umana. Kel Black, e lei è sempre stato qui? Sì, in attesa. Di che cosa? Di te. Castorp non poté finire. Davanti a lui stava Papercorn, che era venuto in cerca della sua compagna di viaggio. Era entrato scostando la portiera e si era messo davanti alla sedia di colui col quale vide lei discorrere alle sue spalle. Stava impalato come una torre vicino ai piedi di Castorp, che nonostante il sonnambulismo si rese conto che doveva alzarsi ed essere cortese. Ma stretto fra i due, durò fatica a tirarsi su dalla sedia. Dovette sfilarsi di fianco. sicché poi i personaggi formarono un triangolo con la sedia nel mezzo. La signora Chauchat adempì un dovere dell'Occidente civile, presentando l'un l'altro ai signori. Un conoscente di prima, disse riferendosi a Hans Castorp, del suo soggiorno precedente. La presenza di Peppercorn non aveva bisogno di commento. Lei ne disse il nome, e l'olandese, fissando il giovane con gli occhi scialbi di sotto alla fronte da idolo arabescata di rughe d'attenzione sulla fronte e sulle tempie, gli tese la mano, il cui largo dorso era coperto di lentiggini. Una mano da comandante, pensò Castorp, se si prescindeva dalle unghie lanceolate. Per la prima volta subiva il diretto influsso della possente personalità di Peppercorn. Personalità, parola che si affacciava sempre alla mente di chi lo guardava. Vedendolo si capiva che cosa fosse una personalità. Anzi, ci si convinceva che una personalità non poteva avere un aspetto diverso dal suo. E i suoi malfermi anni giovanili si sentivano schiacciati dal peso di quei 60, dalle spalle larghe, dal viso acceso, dalle bianche vampe dei capelli, con quella bocca dolorosamente squarciata e quella barba che pendeva lunga e sottile sul panciotto accollato, da religioso. Peppercorn, però, fu la gentilezza in persona. Signore, disse, senz'altro. No, no, mi permetta, senz'altro. Questa sera faccio la sua conoscenza, la conoscenza di un giovane che ispira fiducia. La faccio, signore. Io prego, chiuso. Lei è il mio tipo. Non c'era nulla da obiettare. I suoi gesti civili erano perentori. Castorp gli piaceva. E Peppercorn ne trasse deduzioni che espose per accenni, integrati poi opportunamente dall'intervento della sua compagna di viaggio. Figlio mio, disse, tutto in ordine. Ma se noi, prego di comprendermi, la vita è breve, la nostra facoltà di adempierne le esigenze, ecco, questi sono fatti, figlio mio, leggi, necessità inesorabili. Insomma, figlio mio, ecco. E si arrestò in un gesto espressivo, rimettendosi agli altri e rifiutando ogni responsabilità per il caso che, nonostante il suo avvertimento, ci si trovasse ad aver commesso un errore decisivo. La Chauchat, che era evidentemente pratica e in grado di afferrare da mezza parola i desideri di lui, disse pertanto: «Perché no? Si potrebbe stare ancora un po' insieme, giocare un poco e bere una bottiglia di vino. E lei che fa?» disse rivolta a Castorp. «Si muova. Non staremo qui in tre. Compagnia ci vuole. Chi è ancora nella sala? Impegni tutti quelli che trova. Vada a chiamare qualche amico sui balconi. Noi inviteremo il dottor Ting Fu della nostra tavolata.» Peppercorn si fregò le mani. «Senz'altro», disse. «Perfetto. Benissimo. Corra, giovane amico. Faremo circolo. Si giocherà, si mangerà, si berrà. Sentiremo che noi... Senz'altro, giovanotto.» Castorp salì con l'ascensore al secondo piano. Bussò alla porta di H. Ferge, il quale a sua volta nella veranda di sotto fece alzare dalla sedia a sdraio Ferdinand Vesal e il signor Albin. Il procuratore Paravant e i coniugi Magnus erano ancora nel vestibolo, la signora Stor e la Kleffeld nella sala. Là, sotto il lampadario centrale, fu collocata una spaziosa tavola da gioco, con un cerchio di seggiole e tavolini di servizio. Meiner salutava gli ospiti via via che arrivavano, con lo sguardo scialbo e cortese, alzando per l'attenzione gli arabeschi frontali. Si sedettero in 12, Castorp fra il maestoso anfitrione e Claudia Chauchat. Si distribuirono carte e gettoni, perché tutti furono d'accordo per alcune mani di Vantan. E Peppercorn, con la sua aria di importanza, ordinò alla nana, chiamata apposta uno Chablis del 1906, tre bottiglie per il momento, e dolciumi, quel tanto che riusciva a raccogliere tra frutta secca meridionale e pasticceria. Il suo modo di fregarsi le mani, quando le buone cose arrivarono in tavola, esprimeva una profonda soddisfazione. Verso le due esplose la notizia che il vecchio, cioè il consigliere Behrens, a marce forzate si avvicinava alla sala di conversazione. In quel momento gli ospiti spossati furono presi dal panico. Seggiole e secchielli di ghiaccio si rovesciarono. Tutti fuggirono attraverso la sala di lettura. Peppercorn, montato su furie regali all'improvviso disperdersi della sua festa dedicata alla vita, batté il pugno sulla tavola e lanciò dietro ai fuggitivi un insulto come «pavidi schiavi». Ma poi si lasciò rabbonire fino a un certo punto da Castorp e dalla Chauchat, con la considerazione che il simposio, durato circa 6 ore, doveva pur terminare. Accolse anche l'invito a godere il sacro ristoro del sonno e accettò di farsi accompagnare a letto. «Sorreggimi, figlia mia, e tu, giovanotto, reggimi da quest'altra parte», disse alla Chauchat e a Castorp, i quali l'aiutarono ad alzare la pesante persona dalla sedia e gli porsero il braccio, di modo che a gambe larghe, preso a braccetto, la testa possente inclinata su una delle spalle sollevate, spingendo da parte ora l'una, ora l'altra delle sue guide, con le oscillazioni del passo, si avviò al riposo. In fondo, si concedeva un lusso regale facendosi pilotare e puntellare a quel modo. Probabilmente, se ci avesse tenuto, avrebbe potuto camminare anche da solo, ma disdegnava lo sforzo che poteva offrirgli soltanto il piccolo e secondario vantaggio di nascondere pudicamente la sbornia, mentre di questa non solo non si vergognava, ma anzi si compiaceva lautamente e provava un gusto regale nello spingere traballando i suoi devoti accompagnatori ora a destra, ora a sinistra. E intanto andava dicendo: «Ragazzi, sciocchezze, non siamo mica... Se in questo istante, se dovesse vedere, ridicolo!» «Ridicolo», confermò Castorp. «Ma senza alcun dubbio noi rendiamo il suo al classico dono della vita, facendoci sinceramente sballottare in suo onore. Sul serio, invece, ho anch'io la mia parte. Ma nonostante la cosiddetta sbornia, mi rendo perfettamente conto che ho il particolare onore di accompagnare a letto una spiccata personalità. Tanto poco mi domina l'ubriachezza, benché, in fatto di statura, non possa nemmeno paragonarmi». «Oh, via, via, chiacchierino!» disse Peppercorn, spingendolo contro la ringhiera della scala e trascinando con sé la Chauchat. Evidentemente la notizia dell'arrivo di Behrens era stata un falso allarme. Poteva averla lanciata la nana stanca per sciogliere la riunione. Stando così le cose, l'olandese si fermò e fece per tornare indietro, a bere ancora. Ma le due parti lo consigliarono per il meglio ed egli si lasciò rimettere in moto. Il cameriere malese, quell'omino in cravatta bianca e scarpe di seta nera ai piedi, aspettava il padrone nel corridoio, davanti all'uscio dell'appartamento, e lo ricevette con un inchino, portandosi una mano al petto. «Baciatevi», ordinò Peppercorn. «Per finire, bacia, giovanotto, questa donna affascinante sulla fronte». Lei non avrà niente in contrario e ti ricambierà. Fatelo alla mia salute e col mio permesso. Ma Castorpe rifiutò. No, maestà, disse. Mi scusi, ma non va. Papercorn, appoggiato al cameriere, sollevò gli arabeschi e volle sapere perché non andasse. Perché con la sua compagna di viaggio io non posso scambiare baci in fronte, rispose Castorp. Le auguro buon riposo. No, da qualunque parte lo si guardi, sarebbe una vera assurdità. E siccome anche la signora andava verso la porta della sua camera, l'olandese lasciò partire il renitente, seguendolo però ancora con lo sguardo al di sopra della spalla propria e di quella del malese, con le rughe sollevate, stupefatto di un'insubordinazione che il suo carattere dominatore non doveva essere addezzo a incontrare. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it